rete che fa ora che faccetta. Quella volta ogni minuto che c'è una macchina fornuta. O prima giorno che so chiuda, ma pareva non sporto. Io non so che c'è fa, ma tu ghiaccia risciata. No compagna, io rete che tu spira che faccetta. E vicina, ma va nette tutta cosa, ma ricetta. Stai ricenna che non ha già giovane. 700.000 lire ci cacciate per trasì. 700.000 lire ci cacciate per trasì. E tira qua e botta là e manco tempo per fumare. E non permessa a cercare. Vince vanno sti corno due forzati in danno da vuota. Vince vanno sti corno due forzati in danno da vuota. Vuoi ma tu se vuoi mangiare, vuoi ma tu se vuoi mangiare, per forza qua devi crepare. Vuoi ma tu padrona mia, cammara sai a ricen, io non son che un animale, e ne rischiava. Qua salute io daro che possa avere una palla pronta, ma io voglio tutte le sorte e tutta quella che mi serve. Che mi serve per campana cristiana. Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare? E voglio non stare, sempre le stesse cose. Mancano una cevoglia, la mozzarella, cagliere poco nervoso. Ma era poco la mozzarella, ma c'è prima male, panza, metto all'infermeria di prezzo, forza, passa niente. Continuiamo a così, ma più tutto quando spada la pace. Ma io me l'era lì, però, caro su poi annanzi, ma non me ecco, proprio a cassa. Ne, ci muovimmo la vannanza, no? Come ne, ci muovimmo la giuvimmo, tanto tempo per mangiare e poco, manca gli animali mangiano così. Cammagna così per avuto la castita lo stomaco. Oh padrone, da 3 ore per mangiare, io non voglio essere 3 ore. Papi! Dalle 16 alle 20 in piazza Pontoni. Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Elia Media. Tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Pontoni. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York. New York USA, j'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building, oh c'est haut. Rockefeller Center, oh c'est haut. International Building, oh c'est haut. Waldorf Astoria, oh c'est haut. Pan American Building, oh. Eccoci di nuovo qui da Piazza Pontoni, live per l'ultimo giorno dalla piazza, almeno per questa prima occasione. Siamo qui tutti che asciughiamo un po' le lacrimone e non solo per il raffreddore. Sono qui in compagnia di Julia Draganovic, Claudia Löffelot. Bravissima! Mi sono preparata a lungo. E Pablo Il Guerra. Ciao. E, siamo qui, questa è l'ultima occasione che ho di parlare da questa piazza, almeno per, questo prima, per questa prima tranche di trasmissioni, dal pulpito di Appunti Periferici, questo programma fantomatico che ormai è finito lunedì scorso e con il quale sono ancora qui a tediare voi all'ascolto e voi qui davanti. Che giustamente facciamo un po' il punto della situazione. Innanzitutto io volevo ringraziare l'occasione che c'è stato, ho avuto già modo di ringraziare le diverse persone, però lo faccio anche qui dal nostro broadcasting, per l'occasione di approfondire un'indagine sui quartieri nel modo preciso in cui avevo voglia di farlo, perché innanzitutto non ci sono state nessun tipo di censura da parte di questa. Cosa succede? Ci sono cavi che... Gli diamo il cavo a Pablo? Sì? Hai il tuo cavo, Pablo? Ah, non senti in cuffia, ho capito. Allora, facendo un po' il punto della situazione rispetto a quello che è stato il mio programma, come sapete, perché vi ho tartassato durante i mesi estivi col progetto e via dicendo... Gira attorno il centro di Bologna. Ma no, ero io che dovevo fare le gaffe, non tu, Iunia. Appunto, si chiama Appunti Periferici e presuppone, presuppone che diverse persone che si occupino di enunciazioni artistiche, e con enunciazioni artistiche io vorrei intendere il più ampio raggio possibile di tutte quelle che sono le attività, le varie declinazioni dal teatro, alla musica, all'arte, all'organizzazione anche, nei confronti, cioè di realizzare eventi, adesso ci senti? Ok, realizzare degli eventi nelle periferie di Bologna, sperando di promuovere uno, il recupero del terzo luogo, secondo quelle che sono secondo la definizione di Oldenburg. E finalmente glielo posso dire in faccia a Pablo dopo aver sparpagliato i quattrimoni a 420. e poi forse vorrei spiegare un po' che cosa è il terzo luogo, no? Sì, per dai, ci potrebbe stare a questo punto del programma. Ma tu lo sai, ma tu lo puoi spiegare. No, ma dillo prima tu. Ma non so se lo puoi spiegare in italiano. Ma... Facciamo una. Allora, tu lo spieghi in inglese, io traduco. Oldenburg è un sociologo, sì? Un sociologo americano che negli anni 90 ha scritto questo libro, Il terzo luogo, e verso le sue osservazioni della vita della vita suburbana negli Stati Uniti. Oldenburg ha fatto questa riflessione de che nel mondo del suburbano degli Stati Uniti ha perduto la possibilità di avere un spazio di sociabilità, come lo erano la piazza, come lo erano il bar, il caffè, tutto il mondo vive nel suo spazio privato, ma non c'è un spazio pubblico di sociabilità. Questo è quello che define come il terzo luogo. In Europa è molto, molto comune avere il pub locale, il bar, il caffè, è un spazio che non è la casa propria e non è il lavoro, ma è un terzo spazio che promuove questa possibilità di sociabilità. Però se non sbaglio, nell'accezione che ci piaceva di più accogliere, era più che in uno spazio privato lasciato ad uso pubblico come potrebbe essere un pub, a noi interessava lo spazio pubblico territoriale, civico, giusto? Proprio pubblico in senso stretto. Ed infatti da questo punto di vista mi viene in mente una cosa riguardo proprio alla piazza Puntoni in cui ci siamo radicati per queste 2 settimane, ed in effetti progetti, proprio in merito a quelle che sono le attività attualmente attive a Bologna, molto spesso mi è capitato di sentirmi persone che mi chiedevano perché non in Piazza Maggiore, dove in effetti c'era comunque l'idea, cioè dove comunque si sta veramente rifacendo vivo una situazione più di dibattito anche. Abbiamo avuto prima lo sgabellino nella puntata di Marianna Mendozza e poi anche, insomma, ci sono gli indignati bolognesi. Quindi tu alla fine avevi scelto Piazza Verdi per una correlazione rispetto a quelli che erano gli anni universitari, giusto? Però forse magari per una prossima edizione sarebbe il caso di tenere presente Piazza Maggiore, che per quanto sia anche il salotto buono, se vogliamo, è quello che anche sta raccogliendo più voci provenienti dall'arena pubblica. Bene, avevano multiple considerazioni per trovare una piazza nel Bologna. È certo che l'idea originale era fare il progetto Piazza Verdi. Era molto complicato perché Piazza Verdi è un spazio con multiple come si dice, programmi, cose che frequentato. Era molto difficile per un progetto come questo di occupare la piazza, no? Giulia può parlare un po' di questo. Non volevo innanzitutto dire che ci sentiamo male. Bene. Forse si può alzare un po' il volume da qui? Sì. Quello che diceva è che la Piazza Verdi era il nostro principale luogo per questo progetto, ma è stato molto complicato perché la Piazza Verdi è un spazio che si utilizza per multiple persone. C'è un spazio che la città utilizzano di forme diverse, no? Ma Piazza Puntoni è un spazio che era più facile di occupare, e anche è interessante per questo traffico degli studenti, perché siamo qui nel cuore della vita degli studenti di qui dell'università, e questo per me è molto importante. Ma è anche per me il luogo non è tanto importante, è importante essere in un luogo che si trova nel traffico della vita di una città, no? E questa era una delle cose importanti per questo progetto. Beh, in effetti in questi giorni di traffici ce ne sono stati parecchi. Io poi in realtà gli ultimi giorni sono stata un pochino latitante con la mia febbriciattola, sono stata un po' a casa. E qual è stata la giornata che potete ricordare con più felicità, forse? Rivolgo la domanda a Giulia e Claudia, che sono state con noi tutti i giorni praticamente, a parte qualche piccola giornata fuori regione. Ups, io non sono preparata alle hit list. Sono anche sempre molto... sono un po' latitante alle gradatorie, ci faccio un po' fatica. Posso dire in genere che forse non sono state delle intere giornate, però ci sono state dei highlight, ci sono state delle scoperte per me, soprattutto l'assemblea dello Sgabello era veramente una scoperta fantastica. Per me, mi sono molto pentita che nella prima puntata di questo incontro non c'ero in piazza perché stavo a casa, però ho imparato tante cose, devo dire. C'erano tante voci, adesso faccio un po' fatica anche nelle tue trasmissioni degli ospiti invitati che mi hanno un po'... mi hanno dato molta fiducia, devo dire. Sì. Poi ci sono state anche delle scoperte di cambiamenti dei nostri partecipanti di questo progetto che non mi sono aspettata. Delle persone che cambiavano faccia, voce. Era tutto un fuoco d'artificio che farei adesso probabilmente devo dormire per una settimana, poi ripensarci, poi fare l'elenco di tutte le cose belle che ho scoperto in queste due settimane molto intense. E poi te ne chiederò un'immagine metaforica, senza soggetto. È vero. No, per me è la stessa cosa, che proprio lo sviluppo del progetto, il palinsesto in teoria all'inizio e poi stare qui, vedere come si sviluppano i singoli contenuti con gli interventi della piazza, i dibattiti, poi proprio anche l'evento, chiamiamolo evento, dell'Assemblea dello Scobello qui per due ore, che non era per niente noioso nemmeno per un secondo, e sono tutti progetti che comunque li vedo molto volentieri anche in futuro con i possibili sviluppi di questo progetto. Appunto, futuro. Abbiamo toccato. No, allora, rispetto alle immagini, alla top list delle immagini, beh, e noi siamo qui in attesa di avere un collegamento molto importante con un altro ospite d'eccezione a sorpresa, di cui non vi diremo nulla per il momento, ma sappiate che c'è, incombe, fortunatamente. E frattanto invece mi riporto alla mente l'immagine, una delle immagini a cui sono stata più legata, ovvero era la prima sera dell'inaugurazione della stazione mobile, un vento e io che dal bar vedo la stazione che si gonfia e facendo a muoversi insieme al vento e penso wow, altro che la casetta di, com'è che si chiamava quella con le scarpette rosse? Chiedo aiuto a Federica Patti, che si sta ciucciando una Benagol. Era il decollo, è un decollo vero quasi, no? Sì, ma che Dorothy con le scarpette rosse del Mago, sì, di Oz. È vero, è vero. Ma allora, quindi, poi si era detto, a parte la top list, il futuro di questi contenuti che sono nati e come potranno svilupparsi. Allora, il progetto di Aelia Media ha una partnership con il Mambo per uno spazio fino a fine febbraio, se non sbaglio, giusto? E in quello spazio noi potremo pensare di continuare a promuovere questi contenuti? Faccio la conta per chi risponde. No, va bene. No, questa è la situazione tipica, credo, di questo progetto, e risponda anche un po' alla tua questione del futuro. Certo, lo spazio sta a disposizione, non sappiamo se veramente fino a fine febbraio, ma sicuramente fino alla fine di quest'anno. Dipende da tutti quelli che vogliono portare avanti questo progetto, perché Aelia Media, come dicevo Pablo anche durante la conferenza stampa, è un progetto che lui ha impostato, okay, sì, che deve poi prendere forma grazie a chi vuole proprio disegnarlo, e poi dipende dalle persone che lo vogliono portare avanti. Il Mambo ha messo a disposizione Villa delle Rose, l'abbiamo infatti il contratto di comodato d'uso l'abbiamo dovuto firmare Claudia ed io, in quanto associazione culturale non for profit, la rete ha progetti. Quindi voi venite insieme a Villa delle Rose? No, noi innanzitutto dobbiamo pagare quando Emilio Fantin fa il suo incontro attorno al fuoco nella stanza già centrale. A me invece aveva proposto per continuare appunto i temi che avevamo affrontato in trasmissione, perché io sono una di quelle che ha scoperto nelle trasmissioni l'urgenza di andare oltre, di approfondire, insomma, che ci sono un sacco di cose da poter approfondire con ulteriori contenuti ed incontri. Io sono, se ci sono urgenze fatemi cenno, io mi zittisco subito, l'ospite misteriosa sarà, sono contentissima di introdurla. A me parlava di un fuoco fuori, con anche i signori che giocano alla briscola di solito di giorno, che magari verranno a riscaldarsi anche d'inverno attorno, sì, a quel fuoco. Sicuramente si troverà qualche campo già raccolto dove possiamo fare un fuoco. No, torniamo invece a questa tua proposta di approfondimento di contenuti che abbiamo cominciato a indagare adesso qui in piazza e anche nei mesi precedenti alla nostra discesa in piazza. Io sono molto contenta di questa proposta, sono molto contenta, è un po' quello che speravo che succedesse, però vedo anche davanti a noi, dopo queste due settimane molto intense in Piazza Pontoni, un po' un lavoro di archiviazione, manutenzione, e vogliamo anche recuperare tutti questi contenuti che i nostri ascoltatori di Elia Media potevano sentire nello streaming, di renderli proprio quasi eterni sul sito, creare proprio una specie di archivio accessibile anche per il futuro. Questo sarà sicuramente uno dei compiti, poi naturalmente noi siamo più felici se il progetto va avanti, si arricchisce di contenuti, e si rende visibile, ascoltabile, forse continua anche la sua vita oltre alla fine di questo anno. E per me l'idea di questo progetto non era fare un progetto eterno, ma un progetto effimero. Quello che è più importante per me è che avevano un'interazione con un gruppo di gente come te, ed io vorrei, aspetto che questa esperienza può risultare in altre cose, possibilmente la continuazione di un progetto come questo, ma anche un nuovo progetto che può fare insieme, ma ritornare questa esperienza alla città di Bologna, basicamente. Credo che abbiamo fatto una impressione in tutti voi, i produttori delle medie, questo come scuola, come esperienza collettiva. Io vorrei vedere che c'è un'altra cosa che può venire dopo questa esperienza. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo un sacco. E per quanto riguarda invece i contenuti del mio progetto, cioè del... Ah, ciao Tihana! Tanto cominciano ad arrivare i nuovi producers, ci sono anche, sì, anche qualcuno di Goodwill lì in fondo. Ciao ragazze! Allora... Io ho scoperto proprio l'occasione del dialogo, il dialogo attorno alla possibilità. Mi sono trovata ad avere delle informazioni che avevo piacere di condividere con il maggior numero di persone possibili per vedere di realizzare quello che è un pochino una sorta di prontuario d'uso rispetto alla possibilità di fare facendo rete e facendo qualcosa di culturale. E per questo poi l'indagine nei quartieri periferici, che mi sembrano il luogo che maggiormente potrebbero accogliere le declinazioni, le enunciazioni degli enunciatori artistici. E di conseguenza l'idea del brainstorming inclusivo che dovesse accogliere i diversi ospiti di ciascuna puntata si è rivelato un po' un fallimento, perché in realtà ogni volta che si cominciava a rompere il ghiaccio, a dialogare, zacchete che finiva la trasmissione. Quindi l'unica cosa che posso fare, una volta che, e io sono una di quelli che ha assoluto bisogno imprescindibile della fase di documentazione, io devo avere assolutamente i file, no scusatemi, perché vabbè, insomma, lasciamo un po' perdere, poi mi metterò alle calcagna di qualcuno in particolare, e comunque l'idea è proprio quella di cercare di portare oltre questa necessità e questa urgenza che è comune e che c'è anche suggerita dalle istituzioni. Purtroppo non sono riuscita ad avere un incontro con l'assessore alla cultura, ma va benissimo, magari capiterà occasione più avanti, però per me era importante sentirmi dire da lui quello che al momento è solo una voce così che circola, il fatto che in sostanza da parte dell'istituzione si privilegerebbe e si aiuterebbe anche in maniera concreta con degli spazi o comunque con delle convenzioni un gruppo di artisti che facesse rete, per non sperdere a pioggia le sovvenzioni, ma per concentrarle in un'azione che potesse avere un'azione sinergica tra lavoratori e comunque poi anche con la città. E in questo seno, cioè in seno a questo argomento, a questa speranza, cercare di far parlare le persone, cercare di unire professionisti al di fuori dei generi, perché alla fine credo che tutta la ricerca contemporanea, a prescindere da quale sia la specificità tecnica che viene applicata o meno, in realtà vada comunque a confluire nell'arena sociale, è proprio la socialità e il contemporaneo della città, dei cittadini, quello che preme nel momento in cui si lavora nella cultura. E quindi io vorrei continuare anche perché... E poi anche volevo a voi fare un più o meno le stesse domande e chiedere lo stesso tipo di aiuto che ho chiesto a tutti gli ospiti sin qui. Però non lo so. Se, ma certo. Cosa mi dite di bello? Prendi già nota delle nostre disponibilità. Scaldo la penna. Poi voglio una firmettina solo. Beh, non lo so, ad esempio, così, a che punto siamo qui con... Andiamo avanti? Ok. Ma, ad esempio, voi... No, quello non si può dire per una questione di... ho fatto di quelle gaffe incredibili durante tutte le mie puntate, perciò stavo per farne un'altra con voi dichiarando da dove abitate e non si fa nei media. Quindi, però stavo pensando, nella città in cui abitate... Me la sono fatta da sola la gaffe, speravo di averla fatta, in realtà no, non era una gaffe, scusate. No, comunque, nella città dove abitate, che tipo di performance vi piacerebbe vedere? Che tipo di esperienza vi piacerebbe fruire da un punto di vista, ma non lo so. Cioè, ad esempio, mi sono resa conto che questo, che la stazione radio della pillola in questo luogo, quando dava voce a voci sociali che parlavano della contingenza, delle informazioni, fermava le persone e le persone avevano maggiore interesse probabilmente perché sentivano maggiormente coinvolte. E quindi questo secondo me funziona come attività in questo particolare momento storico. E forse, cioè, dal mio punto di vista avrebbe avuto maggior riscontro se fosse stata in Piazza Maggiore, che la sento più vissuta da un punto di vista sociopolitico rispetto alla zona universitaria, che è andata un po' svuotandosi dal mio punto di vista di volontà politica o di una voce più incisiva in questo senso. Voi che tipo di progetti vorreste fruire? Guarda, anche questa è una domanda che mi arriva un po' inaspettata, perché mi trovo così poche volte fruitrice di eventi. Ritornando però un attimo, se permesso, al discorso di Piazza Maggiore. Ah, attenzione, c'è l'ospite misterioso. Giulia stava parlando, stava no, per parlare. No, fruiamo una performance, speriamo. Stavi dicendo di Piazza Maggiore? Hello? No. Hello? I can hear you. Can you hear me? Marina Vraovic. Marina, how are you? I'm fine. Where are you? I want to see. Oh, you know, we don't have a video. Oh, because it's the group call. Yeah. Okay. But it's great to see you. Everybody can see you now at Piazza Puntoni in Bologna. What do you mean? Well, you mean me? You are, yes, you are live in Piazza Puntoni. Yes, you look beautiful. Now we can see your eyes. So, thank you so much for making time to talk to us. You say 5 minutes. Let's make it 7. we'll make it 7 minutes. We just wanted to talk to you about... a little bit about Bologna, and about your Bologna is a city that, as you as everybody knows, is very important in your work, in your career, because of a piece that you produced here in 1977 in Ponderabilia. And we wanted to talk a little bit about that experience and what you recall of the presentation of that work. You know, first of all, in Bologna, I produced two pieces quite equally important. One piece was in a gallery G7, and the piece was called Relation in Time. And then the second piece was actually after this, was in Ponderabilia. So this piece are both kind of historical pieces. So I would like to talk first about the first one, if it's possible. Yes. So Relation in Time piece was in collaboration with Ulay in 1977. And we was tied by our hair, you know, we sit back to back, tied by our hair together like a kind of bridge. And the idea was that we start this performance before the public arrives. So we was there literally 16 hours and recording every hour of 3 minutes of the video. And when we was on the end of our energy, mostly performance start when you're full of energy and you go to the end, but this time it was just reverse. When we was on the end of our energy, the gallery opened the door and actually invite the public. So we used the energy of the public and to continue to perform for one more hour. Uh-huh. So in total, this performance was 17 hours. It was actually our first long duration work. This was really important. And then about 6 months later, we got invitation to come to Bologna and make a museum for the performance festival in Ponderabilia. And as at that time, we lived just in the car, and you know, we was in camping somewhere in Sardinia, and milking the cows and the goats and the sheep, and you know, getting sausages from the any money, and then we were right in Bologna to do this piece. And the Ponderabilia idea was really artists is the door of the museum. What happened if you know, you become the door itself? So we were standing nude in the front door of the museum, and created the passage was very narrow, so you can't go frontally. You have to choose one of us to face, or why me? So the public, the performance was announced in the museum, who comes through the door thinking that something is happening, but actually this was the performance. And when the public arrived on the first floor, they could see the monitors, and they could see the secret camera recording their choices, and you can see their choices upstairs. So the many people, when they saw the choices, that actually went back and they start, you know, kind of passing us over and over again. And the idea was to be there for 6 hours. But after 3 hours, there came the police, and because it was nude, they all stand there, and they pass, you know, facing me. And on other end, they will ask us for our documents, passports, which of course we didn't have, and they forbid the performance. So this was the end of the story. But this was performance was actually was 3 hours, which was wonderful. We made it. And the performance. That performance was never performed again until in 2010, correct? Or did you repeat that performance? Yes. No, I didn't repeat performance, but there was so many people that will copy this performance, and they will not even put the name where the original come from. Till I got so sick and tired of this that I really understood that we have to kind of open the possibility of re-performance. And that's why I decide from my perspective to re-perform in Ponderabilia in MoMA. And right now, there are in Ponderabilia is re-performing as we speak in the garage of in the touring show in Moscow with Russian artists. Fantastic. How do you see it differently, doing performance art inside museums today? Yes? As opposed to... Hello? Yes, can you hear me? Hello? Hello? Oh. Looks like we lost signal. Hello? With Marina Vanovic. We're going to try to reconnect in a minute. Chiama soltanto, così prende meno banda, senza il video. Hello? Marina, sorry, we lost signal for a minute. Yeah, okay. We know you don't have much time, so we'll just ask one more question. I just wanted to ask you, how do you see it differently to perform in a museum today as opposed of performing in the 1970s, and how is experience different You saw in the 1970s, there was not many occasions to perform in the museum in the first place, because performance was very new art form, and most of the time there will be very restricted time or some kind of performance festival that you can do it. And the performance was really seen as a kind of alternative form of art, so that most of the spaces they've been would be alternative spaces, or very few galleries will actually be considered doing performances in the space. So now the situation is completely different. The performance somehow become mainstream, the art, and the museums are much more open and flexible. And also the audience, because of so much learning history of performance, learning language of performance, understand performance on in a much better level than it was in the 70s. I'm still here. So do you think it is possible to be transgressive doing performance inside a museum, given that now performance art is actually something so accepted inside artistic institutions, as opposed from the past? So was the first question about aggressive? What you said? Transgressive. Transgressive. You know, maybe. What do you mean? This? Well, being experimental, being breaking boundaries, being. You know, for the general public, is still transgressive, still breaking the boundaries. Mm-hmm. I mean, it's still some kind of unusual form of art, and it's still, you know, something that public is very timid, and especially if it's interactive. It's interactive, it's very difficult to be engaged. So I think we are not, you know, advanced that yet, but it's much better situation than it was before, that's for sure. But again, you know, it's another situation, because in the time, in the early 60s, with the happenings, you know, that was the something again different, because the public had much more freedom and there was no any kind of rules. So the interaction with the public was sometimes crazy, violent, you know, and you never know what would end in. And that happenings are, you know, change into more conceptual and more, you know, more restricted and instruction-based performances. So now it's you know, now we have to see where performance is going to develop. And I think the new generation is mixing so many art forms. It's not to do with the installations where the performance is just part of it. They also do it with the artist is not performing himself, but is conducting other performer to perform for him. So, you know, it's changing forms all the time. Okay. Marina, do you have time for one last question, or should we end? Yes. Okay, there's a lot of people here in the piazza, and we would like to give the opportunity to one person in this piazza to ask you a question. Okay, second. What is the question? Huh? Okay. It looks like there's one question by an artist, Stefano Pasquini, di Bologna. Sorry, it's a personal question. Do you remember Claudio Serapica? You had a performance in his studio, he was a photographer. In the 76 or 77, because I found a photograph of you and Yule doing a performance in his negatives. Throughout, you know, I was just looking through his negatives, and I found an action that you did in Bologna. I think it was 1976 or 77, and I was wondering if you remember him. No, I don't. No. You know? All right. We're talking 2011. In the meantime, I live with Aborigines for 1 year in Central Australia desert. I went into every continent on this planet. Right, yes. I meet millions of people, and I really have no memory. So if you can refresh me, because, you know, because it's too abstract. Tell me what I've been doing. I can maybe remember. Yeah, I wish I could show you the photo. In the photo, there's... Describe what I'm doing. Okay. Well, in the photo, there's you standing up, and there's a white sheet hanging, and behind there's Ule, and there's the problem is Claudio died, the photographer, and the other guys in the studio don't remember much of that because they were too young. So it's one thing that's really very important to clarify, that so many times we call everything we do, even in private life or some kind of social setting, performance, and maybe it was just nice party and was not performance at all. Oh, right, absolutely, yes. No, in fact, I, some years ago. I just want to say I just found some years ago in Belgrade in the museum collection. It's me throwing the boxes, carton boxes, in the air and laughing, and somebody sold this to the museum, written Marina Abramovic is throwing the objects in the air, 1971, as an action. I was just moving you know, my place, and I was just playing and throwing boxes in the air. So it was never been work or art or anything. And somebody took snapshots because we've been having fun, and now end in the museum. So we have to be very careful to see if I didn't put this into my biography and it's not part of my performance series, that maybe was not the performance. Right, right. No, I mean, in fact, my second question was exactly that. It was, you know, trying to grasp what it was like at that time, because obviously, well, as far as I know, you know, you just go to parties and perform, which is something that we don't really do much anymore. I mean, it's, you know, to me, the edge between art and life has slightly moved from what it used to be. But in the case of me alone and the case with Ulay, we've been pretty much clear when performance is performance and when life is life, and we document very well all these events which is concerning just performance. But I would like to end today, as we have all these friends and artists in Bologna, I would like just to say something more about Italy and itself. You know, for me, as an artist coming from ex-Yugoslavia at the time, Italy was like a big paradise to go to work. And my work was understood by the Italian public very much. And I have a very love relation to Italy, you know, in so many ways. Because that was the first time that I made, you know, my exhibition outside of the country, where in Yugoslavia nobody even was considered performance as art. Italians did. So this is something that I will never forget, and it always is an enormous pleasure to Italy and come back, because that's the, you know, not just you know, Italian, you know, food, fashion, design is art, who the people understand profoundly. Definitely, and Marina, definitely the Bolognese remember you very well and continue to remember you. And we thank you so much for being part of this conversation here in Piazza Puntoni as part of Aele Media, and we hope to see you again soon in Italy. Right, thank you. Okay. And greetings to Italy. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye. Ciao. Ciao. Okay. Ciao, that was... Ciao, Marina Abramovic in conversazione in New York, parlando della sua opera Imponderabilia che ha fatto qui nel 77, qui a Bologna. È un'opera molto importante nel suo lavoro che si è rifatta nella sua retrospettiva nel Museo d'Arte Moderno, MoMA. Anche ritorniamo con Federa Boscaro che continua. È stato molto un bel intermezzo, non c'è che dire. Ha di sicuro alzato di un bel po' il numero di pubblico che adesso. che adesso fra l'altro è invitato a partecipare nel caso avrà voglia. E quali sono le strategie perché portare eventi artistici della ricerca contemporanea in site specific nelle periferie? Quale potrebbe essere, dal vostro punto di vista, l'opportunità di attivare questo tipo di strategie? La domanda sarebbe perché non farlo? Perché ok, allora perché non portare? Ma io sto facendo questa domanda a te. Forse mi devo fare un'altra aspirina, mi sa. No, comunque perché non farlo? Va bene, questa è la risposta di Pablo. Voi due volete dare qualche suggerimento sul perché farlo e cosa potrebbe significare? Credo di aver imparato qualcosa dai tuoi contributi in queste settimane, perché io quello l'avevi già accennato, ma hai proprio schivato lo grande scandalo di chiedermi dove abito. Non abito a Bologna, quindi però frequento molto il centro di Bologna e non conosco bene le periferie. Quando abbiamo parlato del tuo progetto all'inizio, forse ti ricordi che mi sono chiesta, ma proprio questa opposizione fra centro e periferia veramente tiene? Perché a me sembrava, quando abbiamo parlato all'epoca, proprio della possibilità di presentare Elia Media in Piazza Maggiore, che il centro di Bologna è molto vivace in un modo poco bolognese. Mi sembrava, vedendo tutti questi grandi negozi, le grandi griffe, mi sembrava attirare tutti quelli che forse vivono non proprio a Bologna, ma certamente non ne frequentare delle persone che vivono lì al centro di Bologna. Poi c'è anche questa forma, avevo sempre un po' l'impressione che sia una forma come un'elisse che vuota al centro. E ha un po' rafforzato questa idea la serie di incontri, di dialoghi, di conversazione peripatetiche che tu hai presentato qua, ti faccio vedere quanto è vivace proprio la periferia. Uno ha un po' l'impressione che quello che è veramente particolare di una città, quello che la contraddistingue da altri centri storici in Italia, in cui vedo sempre gli stessi cartelli, degli stessi negozi, delle stesse ditte e così via, sono le periferie. Quindi quello su cui fare più attenzione quando uno non vuole proprio sempre rimanere in quella melma globalizzata. E quindi attivare lì dei processi di attività culturali, dei processi di enunciazione, proprio perché è lì che si sta muovendo la vera cultura contemporanea. Almeno si muove anche lì. C'è una percezione di che il contenuto della cultura contemporanea è nel centro, ma il centro per me, e questo si può vedere in maniera molto chiara nell'arte contemporanea, il centro è il luogo dove si mostrano tutto, dove si parla di tutto questo, dove si faccia una specie di gerarchia della tematica importante, ma tutto il contenuto proviene della periferia. Tu lo puoi avere nella Biennale Internazionale. Tutta la Biennale Internazionale sono nel capitale importante, possibilmente, non si può dire in Sao Paolo o Venezia, o la capitale importante del mondo, no? Ma tutto l'arte che si produce non è fatto in questi luoghi, è fatto nella periferia. C'è artisti in Berlino, ma questi artisti, o in Nuova York, ma questi artisti non sono nati a Berlino o Nuova York, sono artisti della periferia che vengono a fare l'opera là. Dunque c'è una relazione, la periferia è più importante di quello che la gente crede nel discorso dell'arte contemporanea. In Bologna, per esempio, tu lo hai provato con il tuo progetto, la periferia, tutti questi appunti periferici ha mostrato di gente che facciano cose molto interessanti e dove si può trovare possibilmente la vera identità della città, non tanto il centro commerciale, il centro politico della città, no? E c'è un aspetto di refrattarietà da parte della maggior parte della cittadinanza nei confronti delle due parole messe insieme, arte e contemporanea. Traduzione. Refrattarietà. Refrattarietà. Allora, c'è chiusura da parte di una larga fetta della popolazione nei confronti dei termini arte e contemporanea accostati insieme. E dal mio punto di vista l'arte contemporanea ricerca nella direzione dell'arena sociale, così come abbiamo detto prima, e in un certo modo si prefigge come interlocutore ideale proprio questo largo pubblico che però non se lo fila o granché. Secondo voi come possiamo fare in modo di aggirare questo ostacolo, oppure di rendere meno... Se volete poi abbiamo anche un contributo di Matteo Richetti in merito, però forse non... Cioè, nel senso, alla fine... Vogliamo rispondere anche noi, però siamo curiosi a... Sì, perché io ad ascoltare il presidente. Appunto stavo raccontando questo aneddoto per cui durante le mie interviste rispetto alle metafore sull'arte contemporanea tutti scappavano, però io a questo punto non ho l'amplificazione per il microfono, perciò intanto che sistemo il collegamento tecnico chiedo a voi. Io personalmente, se posso, cioè parlo sempre personalmente, chiaro. No, sono sempre un po' sorpresa di questo insistere sul termine arte contemporanea, come se dare sempre questa grande volontà di dare sempre un'etichetta a quello che uno fa. E ho un po' l'impressione che questa... Qual era il termine che dovevo studiare questa sera? Rifrattarietà, mi dicono. Poi dopo lo ripetiamo in coro. In è la Patti, suggerisce, una suggeritrice di fiducia. Rifrattarietà. Forse viene proprio dal fatto che dobbiamo sempre eticare le cose e dire questo è arte contemporanea. Mentre quello che ci interessava, cioè noi operatori culturali, tutti quelli che siamo riuniti qui in questo progetto, pensiamo che proprio l'approccio interdisciplinare sia quello che sia interessante. Perché dobbiamo poi dopo dire però è arte contemporanea, in modo tale che si costruisce subito di nuovo un muro che sembra non si può proprio scavalcare, perché ti fa sentire tu devi sapere che questo è arte contemporanea. Sì, quindi è una questione di etichette, usciamo dal gioco del nome e viviamola, a quel punto vivendola in primis noi e sciogliendo da queste forme semantiche, saremo contagiosi quasi nel goderne, no? Sì, perché quello che ci interessa all'arte contemporanea è proprio l'apertura di nuove conoscenze, il modo di vedere, di sperimentare qualcosa in un modo che ci stimola a sviluppare nuove visioni, a vedere il mondo in un modo diverso, forse darci un'idea di come cambiare la propria vita. E quello, io non ho bisogno dell'etichetta. Alla fine è proprio quello che stiamo facendo qui, cioè se avessimo messo fuori un cartello questo è un chiosco di arte contemporanea, secondo me avremmo avuto molto meno interventi della piazza per coinvolgere le persone, per fare dibattiti qui, è proprio, ma secondo me è un difetto che portiamo avanti in tante cose, che vogliamo sempre dare un'etichetta a tutto, per definire secondo noi le cose, ma invece non c'è bianco o nero, e anche l'arte contemporanea è un grande campo e per la maggior parte che non fa parte degli addetti di lavoro è una cosa, come hai detto tu, che li spaventa un po', come questo non lo capisco, e per questo che è importante che usciamo dal museo, dagli spazi che sono definiti come spazi di arte contemporanea e che siamo qui. Sì, sto d'accordo, tutto. No, ma io vorrei ascoltare questo che voleva compartire. Ok, la questione comincia che gli stavo raccontando che quando facevo questa domanda tutti scappavano, gli suonava il telefono, scappavano via, e questo è il suo intervento. No? Dalla definizione di arte contemporanea, cioè fa paura il termine, sa di qualcosa di complesso, perché io ad esempio vedo come... Lo rimetto dall'inizio perché non c'era l'audio, scusate. Secondo te scappavano da questa, dalla definizione di arte contemporanea, cioè fa paura il termine, sa di qualcosa di complesso, perché io ad esempio vedo come l'arte contemporanea, che per me ha un'esaltazione della dimensione di creatività di cui parlavo prima, trova molto riscontro, ad esempio, le nuove generazioni, e diventando quasi indirettamente una forma di partecipazione alla società e a questo tempo. Cioè, paradossalmente, adesso forse la sto tirando troppo come concetto, ma arriva anche a riempire quel vuoto di disaffezione che c'è verso l'impegno politico, l'impegno sociale. Insomma, fammela dire così, una volta non si faceva politica e si guardava forse a forme di volontariato tradizionale. Oggi non si fa politica nelle sedi di partito, ma casomai si partecipa a forme di rappresentanza diverso, fino anche di rappresentanza artistica della realtà. Non penso solo a rappresentazioni, tra virgolette, teatrali e di accadimenti di attualità, ma penso anche all'utilizzo dei materiali, cioè come questo diventa un elemento di affermazione di un principio, no? Il riuso, il riciclo, e quindi l'arte che coniuga temi di impegno sociale molto forte. E questo era il presidente dell'Assemblea Legislativa, che ci ha dato il suo parere nei confronti di quella che potrebbe essere, che è il potenziale dell'arte pubblica, cioè dell'arte contemporanea, facendo anche un po' un occhialino a quest'arte partecipativa di cui abbiamo tanto parlato in queste due settimane. Intanto chiamo tutti i producer che dovessero essere in giro per la piazza a partecipare, perché cedo la parola aspetta, abbiamo una replica da parte di Giulia rispetto all'intervento di Richetti. Sì, volevo un attimo dire che non ci ha fatto solo l'occhialino, perché in realtà dovremmo anche ringraziarli di essere qua, perché quasi quasi è un po' l'Assemblea Legislativa che ha reso più possibile, che proprio ha sviluppato questo progetto, quindi ascoltando Matteo Righetti, spero che noi l'abbiamo anche soddisfatto con quello che stiamo facendo. Anzi, ne sono convinta. Ne è abbastanza, anche lui ne parlava poi durante l'intervista di questo premio partecipativo, di come per lui fosse stato significativo anche in seno a certi progetti di apertura che hanno tra la comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini. Beh, cosa faccio? Passo la palla per la grande ora dei saluti e della festa? Ok, metto il jingle e un brano. Suggerisce la Patti, che è la suggeritrice doc. Allora fatemi cambiare progetto. Eccolo qui. E come prima. Multimedia Channel. Radio Aelia Media. Tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. Oh, c'est haut, oh, c'est haut, oh, New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. Oh, c'est haut, oh, c'est haut, oh, New York, New York, USA. Empire State Building, oh, c'est haut. Rockefeller Center, oh, c'est haut. International Building, oh, c'est haut. Waldorf Astoria. Ed eccoci qui per l'ultima volta in Piazza Pontoni. Pianto generale. E tu com'è che sorridi, Katia? No? E, beh, insomma, siamo qui. Quanti siamo di producer? Ci siamo contati? No, non è vero, siamo molti di più. Ok, Tihan è andata via, siamo 10? 11? Beh, siamo un buon numero, più della metà. Le altre 19:20 non ci sono, sono in punizione. E, mi hanno chiesto di fare da moderatrice, probabilmente perché c'ho ancora questo debito di 10 minuti con la puntata precedente. E, su cosa vi potrei moderare, miei cari? Quale argomento vogliamo tirare fuori? Forse è il momento che sia Pablo a fare delle domande. È vero? Bene. Farò la prova. Bene, abbiamo cominciato questo processo 4 mesi fa? Ma dall'inizio? 5 mesi, sì. Inizio? A fine marzo. Sì. A fine di marzo. E abbiamo cominciato parlando di cosa è la partecipazione. Forse sarebbe un buon comincio per voi, per tutti quanti, che cosa è la partecipazione? Come pensi la partecipazione in questo momento, nell'arte specificamente, e come si ha svoluto le sue pensieri di cosa è la partecipazione nell'arte? Comincio io? Okay. Comincia. Allora, direi che fino a 5 mesi fa l'idea della partecipazione, almeno in me personalmente, ma sento di poter condividere questo con i miei compagni di lavoro Alessandra e Vincenzo, era già abbastanza chiara. Quello che ha dato questo progetto a il nostro modo di percepire e di intendere la partecipazione è il fatto di averlo messo in atto. Nel senso, abbiamo sempre parlato di aperture, abbiamo sempre parlato della necessità di uscire dalle etichette, come diceva Giulia, dal fatto di parlarsi dentro, di parlarsi sopra e di uscire effettivamente nello spazio pubblico a fare qualcosa che apparentemente ha pochissimo a che fare con l'etichetta di arte contemporanea, ma che poi in qualche modo ci rientra. Insomma, io sento di dire, dopo tutta l'esperienza di Work in the Field, che partecipazione è esserci ed esserci insieme agli altri. Alessandra? No, sono d'accordo, Anna. No, nel senso che comunque anche ripensando un po' a come abbiamo impostato il nostro lavoro, era un po' strano, no, pensare un lavoro del genere per una radio, per un formato radio e audio soprattutto, in cui la gente magari poteva vedere, però non proprio tutte le persone. E il fatto che comunque noi abbiamo deciso di approcciarci anche a... appunto per quanto riguarda i bengalesi attraverso lo sport, ma non parlando mai di arte contemporanea con loro, se non stiamo facendo un progetto di arte contemporanea, è stato credo fondamentale. Quindi il fatto proprio di abbandonare appunto l'etichetta dell'arte contemporanea oppure dell'arte pubblica oppure dell'arte partecipativa, parlando semplicemente di partecipazione e di appropriazione di spazi. E come noi, mettendole in atto. Sì, esatto, come noi abbiamo fatto anche qui, appunto tramite il chiosco e tramite il progetto. Vincenzo? Ah, vabbè, avete detto tutto voi. Io no, pensavo un'altra piccola cosa, ma che non vado ad aggiungere niente, che in realtà è parte del discorso. Più che arte partecipazione oppure arte partecipativa, a volte mi viene tanto di parlare di attivismo, essere attivi e prendersi cura di qualcosa. Molti di noi qua in questo chiosco sono dei curatori, ma l'atto di prendersi cura di un oggetto, di uno spazio o anche solo di un'idea è una cosa che contribuisce molto a far crescere e a definire la partecipazione. Daniela. Ciao. Partecipazione per me è fare insieme non solo tra di noi, ma coinvolgendo appunto le persone. E ci tengo sempre molto alla citazione del libro Le città invisibili di Italo Calvino. Le città, come i sogni, hanno paure e desideri. Credo che il compito dell'arte partecipativa sia andare a trovare quelle paure e cercare di risolverle, e cercare i desideri e forse esaudirli. Almeno questo è l'auspicio. E questa era Daniela Spagna Musso per voi. Beh, io mi sono divertito. Non lo so, devo dire che non tirare le somme così live faccio un po' fatica. Però, anzi, chiedo a Pablo, secondo te è riuscito questo progetto di arte partecipativa? O che ti è successo quello che ti aspettavi oppure no? Tutto il mondo mi domanda questo, cosa aspettava. E una cosa che io ho imparato nel tempo è che è importante non aspettare molto di un progetto. Questo non vuol dire che non vuoi essere serio con le cose che tu fai, ma se, essere aperto un po' con le possibilità del progetto e come si va a sviluppare. Ma una cosa che io consideravo molto importante era semplicemente poter lavorare con un gruppo di gente. Per me questo progetto era partecipativo, era un progetto partecipativo di livelli diversi, ma la partecipazione principale era la creazione di un gruppo di gente che può stare in collaborazione, in comunicazione insieme, e anche che può creare altre, un effetto di domino. Certo, infatti il mio auspicio per Aelia Media è che da questa esperienza si possa andare in qualche altra direzione, o comunque che questo progetto abbia un futuro. Se non altro potrebbe diventare una trasmissione radiofonica che vede la nostra partecipazione, la tua partecipazione e la partecipazione del pubblico che ci ha ascoltato, per continuare la partecipazione rispetto a quello che è il mondo dell'arte contemporanea. Sì, per me, bueno, io sono soltanto un visitante a Bologna, no? Non abito a Bologna, certo. mi spiace, perché Bologna, sto innamorato di Bologna, è vero, mi pare una città affascinante. Vieni a vivere a Bologna. c'è bisogno di gente, sì, come te. Sì. Che poi se lo dice un bolognese, mai fatto, certo, scusa, se non posso tornare a New York io, che New York venga da me, no? Ma il fatto è che voi siete bolognese, voi siete qui, e certo, c'è molto da fare qui in questa città. Una delle cose che per me la prima cosa che ho veduto qui è come è possibile che una città come Bologna, che ha questa ricchezza culturale, questa ricchezza in tanti diversi aspetti, che non fa più o non è più conosciuta internazionalmente come una capitale in Italia o in Europa dove si fa cultura, no? Qualcuno ha detto in quel momento in Italia, oh, c'è un detto che in Bologna si pensa in altre città, si fa in altre città, ma in Bologna ha questa tradizione della città che pensa in Italia, no? Ah, questa non la io da bolognese non la conoscevo, ma va bene. Ma mi pare molto interessante. Ma vorrei fare un'altra domanda anche a tutto il gruppo, e vorrei sapere che aspetto di questa tutta questa esperienza o hai trovato più sfidante, più difficile di tutto il processo. Mariana Sala. La partecipazione è stata difficile. Di chi? Di tutti, di noi, perché la partecipazione secondo me è una cosa che si doveva scoprire e che si deve continuare a scoprire. È importantissimo, quindi ognuno di noi ha un peso molto importante per poter partecipare. Poi è un modo anche per capire i propri limiti, superarli, ed è importantissima la partecipazione proprio a livello anche di collaborazione. E quindi è normale che è la prima cosa che è un po' difficile, perché comunque ci si rapporta tra mondi che sono diversi, perché ognuno di noi ha un mondo, quindi si deve interagire con un mondo che la pensa in maniera diversa rispetto al nostro mondo, però è bellissimo. Posso fare una proposta io? Sì. Visto che ho già fatto il mio speech contro le etichette, mi viene veramente voglia di invitarvi a fare una specie di gioco. Abbiamo già parlato dell'etichetta dell'arte contemporanea. Un'altra etichetta è diventata la parola partecipazione, che abbiamo utilizzato in queste due settimane in un modo quasi inflazionario, che io non mi ricordo più che valore ha. Per scoprire il valore di questa parola, io vi propongo di non utilizzarla più, ma di cercare di tradurla in qualcosa di diverso, di dire, cioè, invece di dire la partecipazione, dire il gioco di cricket, il dialogo, la conversazione, di trovare i vostri modi in cui voi avete tradotto la partecipazione nelle vostre pratiche, perché quello secondo me è stato l'idea più geniale di Pablo Elguera, proponendo proprio un progetto di radio, era quello di invitarvi ad una specie di traduzione delle vostre pratiche, non solo dall'arte visiva in un suono, in un parlare, ma innanzitutto in una conversazione. Io vorrei un po' sentire da voi. E sono arrivate le pizze, però, adesso. Il mangiare insieme. Prima traduzione. Ma Giorgio, tu volevi dire qualche cosa? No? Sì, io vorrei dire una cosa a proposito della radio in generale, come me, come strumento di comunicazione, che devo dire non usavo moltissimo, cioè non ero un'ascoltatrice radiofonica, però adesso che abbiamo iniziato ad usare questo strumento lo conosco meglio. E allora ho pensato ad alcune cose che sono abbastanza ovvie, però comunque, insomma, se uno magari non ci pensa. E allora ho pensato che la radio è uno strumento a metà strada tra leggere un libro, perché tu quando leggi un libro non vedi le cose che stai leggendo, quindi le puoi solo immaginare e devi sviluppare la fantasia, e quindi è una crescita personale. E però è anche a metà strada con la televisione, perché nello stesso momento in cui tu ascolti una cosa alla radio la stanno ascoltando tante altre persone. Però in più rispetto alla televisione al fatto che tutte le persone non sono incollate davanti a una cosa, quindi non si possono guardare tra di loro, ma mentre l'ascolti puoi fare tantissime altre cose. Quindi è proprio uno strumento eccelso, super democratico, può arrivare dappertutto, e quindi io faccio un elogio alla radio adesso. Io invece volevo fare un elogio a te, perché mi è piaciuto moltissimo il tuo programma e penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Parliamo un po' del programma del 77, è molto interessante. Che pensi? No, perché no, credo che è molto interessante tutto che ha... cosa? No, che pensi di questa generazione del 77? Cosa abbiamo imparato di queste persone? Beh, ci hanno raccontato tante cose. Intanto la prima cosa che mi ha colpito di queste persone è che... alcune delle persone che sono venute sono persone comunque famose nel loro contesto, e altre meno, però tutte mi hanno dato subito disponibilità. Quando io ho chiesto di venire a parlare, per loro è stato subito importante farlo. Quindi vuol dire che il fatto di aver appartenuto ad una generazione in cui si stava in piazza dalla mattina alla sera, mi hanno raccontato che tornavano a casa pochissimo, che non esisteva l'idea di chiudersi in una stanza, di chiudersi da soli, ma era proprio tutto un vivere in modo collettivo, vuol dire che questa è rimasta in loro, questa idea. E quindi per noi potrebbe essere un aspetto positivo, perché hanno più, cioè almeno per la mia generazione, più o meno quella di tutti noi partecipanti, è positivo perché adesso queste persone per la maggior parte sono quelli che lavorano, in sostanza, la generazione del lavoratore medio. Quindi un po' questo aspetto ci potrebbe arrivare, anche se non ci arriva sempre, perché viviamo in un contesto oggi abbastanza chiuso, dove la vita di piazza, come purtroppo abbiamo visto anche con questa esperienza, non è così vivace, neanche a Bologna, dove invece lo era. E quindi io ho pensato che fosse importante tirare fuori un po' di ricordi di quel periodo per far vedere com'era e come potrebbe essere. Tante delle persone che sono venute, anche se hanno detto che di quegli anni hanno un ricordo gioioso, molto, molto festoso, a differenza di quello che è passato nella cronaca, insomma, per lo più che l'ha etichettato come anni di piombo, e un po' di speranza l'hanno persa vivendo nel contesto di oggi, perché non ritrovano proprio le stesse radici, cioè come se si fosse comunque rotto qualcosa, cioè, come se viviamo in un contesto più ampio, dove forse anche l'informazione ha fatto il suo gioco, nel senso che sappiamo molte più cose di quanto ne sapessero allora, e c'era anche un senso più forte di poter fare, c'era un valore dell'utopia che ancora Cacucci ci ha detto che l'utopia per lui non è una cosa che non esiste, ma è un qualcosa che esiste in un altro tempo, che arriverà, che ti spinge ad andare avanti. Forse questo li guidava 35 anni fa, adesso siamo un po' più impauriti, un po' più intimiditi, però secondo me il fatto di parlare con delle persone che hanno vissuto in un altro modo, in un altro contesto, deve essere uno stimolo per tirarci fuori da un sistema in cui noi siamo inseriti da quando viviamo, e quindi insomma dobbiamo vedere un po' più in là. Anna. Vorrei farti una domanda. Io ho seguito una parte della tua trasmissione, l'ho trovata estremamente interessante, però purtroppo non sono riuscita a seguirla tutta, quindi faccio la domanda a te proprio perché non ho una visione d'insieme. Secondo te, quanto tutto ciò che è avvenuto nel 77 a Bologna rappresenti una risorsa per la nostra generazione, e quanto invece è un po' un peso, una specie di aspettativa, una specie di ombra che ci portiamo dietro, è qualcosa che noi non saremo mai, è qualcosa a cui noi non arriveremo mai, e che magari ogni tanto giochiamo a scimmiottare? Allora, vabbè, per me è un po' difficile, perché l'ho chiesto anch'io a loro, nel senso che, però proprio a livello personale, quello che ho potuto cogliere, quello che dovremmo prendere di positivo è vedere che persone sono diventate dopo quegli anni, nel senso hanno vissuto in un certo modo e poi sono stati catapultati in un contesto che per molti è stato disastroso, non solo a livello politico ma anche a livello proprio delle loro relazioni, perché hanno raccontato tutti allo stesso modo che a partire dal 78 è arrivata l'eroina in modo massiccio a Bologna e ha annientato il movimento. E molti di loro l'hanno letta proprio come un'interazione non del tutto spontanea, ma come se ci fosse proprio un'intenzione di spegnere una creatività o un movimento. Però loro l'hanno superato in fin dei conti, cioè ogni volta che tu gli chiedi di raccontare loro lo raccontano volentieri, cosa che invece io non so se tra 30 anni, se mi chiedessero di raccontare, io non lo so se sarei così disposta a farlo. Quindi vuol dire che un seme positivo c'era e c'è ancora. Di negativo, cioè allora tanti di quelli che sono venuti, anche ad esempio tra cui Cacucci, tra cui anche forse anche Bifo, si sono un po', dicono un po' che la loro generazione ha avuto la colpa di non presentare bene quel periodo, cioè nel senso che hanno lasciato in qualche modo che l'informazione, che la cronaca, che la stampa, che la storia passasse soltanto dei fatti, come ad esempio i fatti violenti, le morti, le uccisioni, gli atti di violenza, non lo so, questi aspetti, e che venisse oscurata la creatività di quel periodo, la spontaneità, il fatto di avere un sogno collettivo di portarlo avanti, anche se erano divisi in tanti piccoli collettivi, in tanti piccoli movimenti, comunque si prendevano a cazzotti e andavano avanti insieme, e oggi non c'è. Quindi io non penso che sia stata tanto una colpa della loro generazione, perché nessuna generazione può riuscire a rappresentarsi degnamente. Penso che sia un problema del nostro paese, della stampa, dell'informazione, che è fondamentalmente abbastanza corrotta e ha dato una cattiva testimonianza di quel periodo. E quindi, però, visto che per fortuna ci sono ancora delle voci narranti, perché sono ancora vive queste persone, se le ascoltiamo possiamo rivederlo meglio. Io volevo dire una cosa a Giorgia rispetto ai ragazzi del 77. A parte grazie di avermi fatto incontrare Pino Cacucci, ma a prescindere dalla mia passione per Pino Cacucci, forse la domanda di Anna è sicuramente giusta e legittima, ma i ragazzi, che erano ragazzi nel 77, hanno prodotto il loro tempo. Forse il problema di Bologna oggi, di questa città oggi, è che si vive dei ragazzi del 77, esatto, di quelli del 90, di quelli dell'inizio del 2000, sì, e purtroppo non si vive dei ragazzi di oggi, citando, sì, il grande Rosso Ramazzotti. E quindi forse... Io voglio proprio sdrammatizzare tutto ricordandovi il mondiale di 2 anni fa, dove Lippi ha portato dei dinosauri in campo, ha portato praticamente quasi pari pari i campioni del mondo del 2006, ma non era una questione, cioè non è colpa dei vecchi se non riescono se la nuova generazione non riesce ad andare avanti. A volte sta anche la nuova generazione di mettersi gli scarpini e scendere in campo. Ma infatti secondo me il vero insegnamento che magari possiamo prendere dal 77 è quello di non avere paura di rompere. Loro dalla loro parte hanno avuto che avevano voglia di fare, di creare qualcosa di nuovo, e si sono fatti tabula rasa di quello che erano le loro tradizioni. Per noi anche in questo momento è inutile che ci soffermiamo troppo a pensare al 77 o al 90 o al 2000 o al 2010. No, dobbiamo pensare che siamo ora. E come anche quando si parlava con quelli degli Sgabello, che si diceva ma sì, andiamo a manifestare, ma non c'è il problema della cosa manifestazione. È vero, questo è il momento in cui dobbiamo imparare ad osare, a dimenticarci le tradizioni che ci sono dietro di noi, creare delle nuove cose. I ragazzi del 77 non pensavano di essere dei ragazzi del 77, erano ragazzi semplicemente che avevano voglia di fare, di sperimentare, di creare, non si ponevano dei problemi. Non poniamoci dei problemi nemmeno noi, cominciamo a reagire, troviamo altri modi, altri linguaggi, altri strumenti, altri modi di fare, e secondo me questo è possibile. Ma non stiamo a guardarci indietro, guardiamo davanti al futuro. Io ho sempre in mente le parole di un grandissimo storico, anzi di due grandissimi storici. Una volta Marc Bloch, che fu un importantissimo storico sociale, raccontava che lui aveva l'incompito di andare a fare da cicerone a un altro importantissimo storico, che era Huizinga. Huizinga era stato un combattente durante la Prima Guerra Mondiale, un eroe, era un fondamento del rinnovamento storico. Bloch pensava di doverlo portare in giro per musei, eccetera, e quando è andato da Huizinga e gli ha proposto questo, Huizinga ha detto no, io voglio andare in giro per le strade, la storia le fanno le persone che io incontro per la strada ora. Lui lo disse al principio del Novecento, è tuttora valido. Katia, go go go. Puoi dire qualche cosa? Manca anche Babe. Sì, Babe, tu sei. Io vorrei dimandare un'altra cosa, tu sei la persona che ha di più esperienza nella radio. Sei il nostro professore della radio. Ma anche no. Ma vorrei sapere come questa esperienza è diversa per te, perché tu hai fatto tanto radio. È diversa perché c'è l'opportunità di intercettare persone che passano, cosa che in radio non succede, perché le radio non sono più come era Radio Lice nel 77 o nel 76 in Via del Pratello, quindi in piena zona di Bologna. Sono tutte un po' decentrate, non di tanto, ma lo sono. mentre qua siamo comunque, ok, è vero, non passa tanta gente, nel senso che non è Piazza Verdi, non è Piazza Maggiore, però comunque qualcuno passa, qualcuno si ferma e qualcuno sono riuscito a tirarlo dentro, a fatica, nel senso che ho beccato dei ragazzi che casualmente facevano radio nella radio dell'Università di Bologna, per caso, e erano contentissimi di provare a trasmettere qua. Quindi una cosa che io conosco bene della radio è che è un enorme catalizzatore. E una radio del genere, secondo me, fissa in radio 365 giorni all'anno, quindi in FM, piantata qua, anche se qua non passa tanto tanta gente, diventa un elemento di catalizzazione sociale spaventoso che in Bologna non ha più. Non c'è tanto bisogno di mettere polizia in Piazza Verdi, metti un chiosco come questo e hai già risolto tutti i tuoi problemi, ti si riempie di persone che portano il loro portato, scusate il gioco di parole, e che non è poco, perché la riavvivi e la ritrasmetti e si creano dei feedback positivi, quindi o si mettono a fischiare le casse oppure qualcosa di nuovo di solito si produce. Questo nelle radio locali si può fare, ma è più faticoso, perché devi portare le persone fisicamente, ti possono chiamare al telefono, questa è una cosa molto bella che hanno le radio locali, però noto che succede sempre meno. Noi abbiamo pochi ascolti, Radio Kairos non ci succede mai, poi anche quando suona Fujiko di notte, figuriamoci, mezzanotte, e al massimo ci insultano, però a parte quello è difficile che uno venga fisicamente, e più che altro col suo portato immediato, è molto più immediato, perché ti senti in uno studio, mentre qua sei in piazza. Questa è la cosa più bella che c'è a fare una struttura come questa. Tra l'altro la struttura arancione di tubi colpisce. Posso rispondere in un modo molto ritardato alla domanda che mi ha fatto Fedra prima al riguardo della hit list? Sempre pensando a quel termine che non possiamo più pronunciare, credo che Bab ha trovato uno dei modi più geniali a tradurre questo termine proprio in un linguaggio radiofonico. Sì, no, ma proprio chiamando la gente della strada, chiamando delle persone che di solito non vanno a Radio Fujiko perché troppo fuori, e farli partecipi del progetto, fa ascoltare quello che vogliono ascoltare o fa ascoltare quello che producono loro, mi sembrava proprio un'idea così semplice e così geniale e così piacevole. Se devo essere onesto, ho fatto di necessità virtù, nel senso che dovendomi occupare della parte tecnica, costruire i tubi, ho detto sarà meglio che tagli e faccia qualcosa di semplice. E poi l'altra cosa che ho dovuto tagliare è stata la descrizione del progetto, perché per me parlare di arte concettuale avrei fatto come Vieri. E quindi dicevo ai miei amici, se volete venire trasmettiamo nella piazza, ok, veniamo. Stop, non riuscivo, soprattutto inizialmente facevo molta fatica a raccontargli tutto il progetto. Poi quando gli dicevo trasmettiamo dalla piazza, ok, venivano. Guardo quanto è fertile non utilizzare questi termini, bravissimo. Ma no, come dire, è tutto, non ci ho pensato tanto. A questo proposito volevo fare una precisazione importante, la canzone Ragazzi di oggi non era di Eros Ramazzotti, bensì di Miguel Bosé. E in questo frangente volevo invitare Cinzia a parlare di come è andata per lei. Devo proprio. E, dunque, io purtroppo sono riuscita a godermi la radio molto poco e questo mi dispiace. Purtroppo ci sono state troppi eventi in questo periodo nella mia vita e non sono riuscita ad essere molto presente. Però sono riuscita a godermi almeno un'ora di trasmissione. Una l'ho fatta e sono stata molto contenta. Ed è stato molto bello per me sì, cioè per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia persona, nel senso che quell'ora ero terrorizzata di farla, facevo fatica a capire come organizzarla, cosa parlare, cosa dire, insomma, però dopo insomma, mi sono lasciata andare ed è andata anche molto bene, ma più che altro sono stata felice di dare una possibilità a, ai miei tre ospiti. No, ne avevo quattro, cinque. Cinque ospiti avevo quella sera, però di quei cinque, tre erano persone normali, nel senso come noi. Però due di quegli ospiti erano persone con serie difficoltà. E per loro venire in radio e parlare è stato commovente. Io sono riuscita a concedere loro un piccolo spazio di inclusione e non di esclusione come di solito, insomma, purtroppo ci sono abituati, no, ad essere esclusi e ad essere partecipi magari di progetti speciali. Ecco, questo non era un progetto speciale, era una trasmissione con loro. E quindi è stato bello per me riuscire a dare loro questa possibilità. Ecco, quell'ora me la sono goduta per questo. E così, insomma, questo volevo mettere, condividere con voi, insomma. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building, Océan. Rockefeller Center, Océan. International Building, Océan. Waldorf Astoria, Pan American Building, Océan. Bank of Manhattan, Océan. Bene, torniamo. Io ho due domande per tutto il gruppo qui. La prima cosa è stiamo in un momento molto importante politicamente in Italia, nel mondo, e questo è una è incredibile che questo progetto ha cominciato in un momento storico della manifestazione in Roma, eccetera. Tutti voi avete fatto di interviste a multiple di persone diverse nell'arte, nella cultura, nella città. La mia domanda è Come vedi la relazione del mondo culturale bolognese in relazione con questo che sta succedendo politicamente, economicamente, e come si può fare una relazione più vicina nella produzione artistica e la realtà politica del paese? Fedra Boscaro. È la famosa domanda da un miliardo di euro, giusto? Quella che ci rimpalliamo tutti i giorni con tutti gli ospiti. Beh, a Bologna non abbiamo potuto fare Occupy Wall Street, abbiamo fatto Occupy Piazza Pontoni, no? Ma... 2 secondi di silenzio radiofonico. No, comunque in realtà devo dire che in Piazza Maggiore qualche cosa si stava muovendo. Ad esempio abbiamo avuto anche noi gli indignati italiani, che hanno, che insomma sono stati lì in piazza per diversi mesi, cioè no, insomma ok, mi fanno già intagliare. Comunque, in Piazza Maggiore, dal mio punto di vista, qualche cosa si sta muovendo. Ci abbiamo lo sgabellino, gli indignati, ci sono diffusi scioperi, attività, cioè c'è sempre qualche cosa. Infatti io insisto nel dire che probabilmente la stazione radio avrebbe avuto più gioco anche lì, si sarebbe iscritta in un terreno già un pochino più insomma pronto, magari anche che avrebbe offerto più voci, avremmo avuto più occasioni di amplificare in tempo reale voci dalla piazza, così come è capitato anche qui, ma molto meno perché abbiamo dovuto farli venire apposta da lì dove erano. Ma io faccio un po' fatica a raccogliere le idee in questo momento, però perché sento che il pensiero che c'è dietro è abbastanza complesso e probabilmente avrebbe bisogno di varie ore di discussione all'interno del nostro chiosco. Ma io credo che non esista realmente una ricetta che metta insieme degli elementi, quindi sgabello più indignati più sciopero uguale. Atto politico. E mi sto chiedendo molto in questo periodo quanto l'arte in generale riesca ad essere trainante o comunque riesca ad essere voce o parte del mondo reale, che poi è un mondo politico. Proprio prima, Pablo, ascoltavamo delle canzoni di protesta, io mi chiedevo quali sono le canzoni di protesta contemporanee, cioè come riusciamo a dare la voce effettivamente a, appunto alla protesta. E credo che Bologna, per Bologna come per molte città d'Italia, la situazione sia abbastanza controversa, cioè la nostra idea di politica adesso è abbastanza difficile, abbastanza complessa, ci sono tanti buchi, ci sono tante lacune che effettivamente non è facilissimo colmare. Abbiamo parlato della manifestazione del 22, ne abbiamo parlato proprio del 15, ne abbiamo parlato proprio qui in radio e ne parlavamo anche prima. Effettivamente in tutti i commenti che ho sentito fare, anche nei nostri di commenti, non c'è mai un'idea di progetto politico. C'è l'idea della protesta, c'è l'idea dello sfogo, c'è l'idea della distruzione dello status quo, ma facciamo fatica ad essere progettuali anche nel protestare, facciamo fatica a focalizzare probabilmente qual è questo quadro che si potrebbe delineare grazie alla rottura del sistema attuale. E credo che questo sia un po' un problema in generale, non soltanto per quanto riguarda il coinvolgimento dell'arte nella vita politica, economica e sociale del paese, se poi la pensiamo in termini internazionali, chiaramente a livello mondiale. E quindi questo, non lo so, io sono molto confusa e mi piacerebbe moltissimo sapere cosa ne pensate voi. Scusa, chiedo un attimo, non volevo dire che fosse una ricetta, perché queste tre cose insieme fanno attività. Sì, ma non mi riferivo a quello... ci ho tenuto perché non era assolutamente mia intenzione, certo, dire una cosa del genere. Fra l'altro però quelle attività usano gli strumenti artistici della contemporaneità per coinvolgere persone, tipo partecipazione, scrivere insieme racconti piuttosto che creare dei disegni lì in piazza. E chiudo dopo aver puntualizzato, scusate. Non lo so, forse dovremmo riuscire a guardare al pianeta Terra o a guardare al nostro paese da lontano, facendo in modo che si guardi tutti quanti nella stessa direzione. Non so se mi spiego, quando si ha un'immagine molto lontana, per forza di cose la si guarda tutti quanti guardando appunto nella stessa direzione. Ma... e forse è questo quello che realmente sta mancando, un progetto comune, un progetto. Ma il progetto comune vuol dire che c'è un pensiero. Se non c'è un pensiero condiviso. Non c'è un pensiero forte, sì, certo. E questo è il momento del pensiero debole. Forse attraverso questi incontri incomincerà, oltre che a parlare e indignarsi, a parlare e a progettare, a pensare. Però forse siamo ancora un po' indietro. Io credo come che passo. Comunque, e questo secondo me è da sottolineare anche per i nostri amici stranieri, c'è una disillusione e un senso di impotenza per la nostra generazione, ma non credo solo per la nostra generazione, che comunque è implicito in tutto quello che facciamo. Cioè, la storia dell'Italia ci insegna che comunque il nostro potere è veramente minimo. Tu non ti senti impotente? No, ma questo mi fa molto piacere. Io non mi voglio sentire impotente. Anch'io non mi voglio sentire impotente. E non voglio, cioè, però questo comunque è un fattore che non puoi negare. Cioè, la disillusione della comunità in questo non senso di comunità, cioè il sentirsi impotenti rispetto a quello che sono le dinamiche di potere in Italia. Posso dire una cosa? Proprio la vostra delusione è la prima cosa che si percepisce da straniero. Da outsider. Ne sono convinto sono io quando i miei amici stranieri mi vengono a trovare a Bologna, sono contento di raccontargliela in maniera lineare, la nostra delusione. Sì, però la delusione è proprio quello che ci comunicate tutto il tempo. C'è la delusione e c'è sempre la spiegazione dei motivi per la delusione sulla base della storia. C'è sempre questo sguardo indietro. Io capisco che l'Italia è il paese per sé di un bagaglio culturale pesantissimo, perché ricchissimo. Io vorrei proprio... Sono molto molto contenta, e ho anche espresso il mio entusiasmo nei confronti del commento di Katia Baraldi, perché io spero che questo progetto vi dia un po' uno stimolo per guardare avanti, per dire ok, siamo dei nostalgici, cioè, vogliamo anche, guardare avanti. Quello che mi ha colpito moltissimo nella discussione di questo pomeriggio dell'assemblea dello Sgabello era questa questione del popolo. Non siamo un popolo, non siamo ancora un popolo. La domanda è perché? Perché ce l'hanno proprio imposto da sopra e tutto quanto. Ragazzi, sì, ma perché? 150 anni fa. Ok, allora adesso ci chiediamo, siamo qua. Giulia. Ci chiamano italiani. Quali sono le alternative? Quali sono le alternative? Non volete essere un popolo? Se non lo volete, dividetevi. Cioè, quali sono le conseguenze? Andiamo Giulia, avanti. Forse il vero, Giulia, forse il vero problema è essere cittadini. Essere cittadini è un'altra cosa che essere popolo. Cittadini è una presa di responsabilità. Da cittadino tu hai doveri e diritti. Da cittadino tu hai il potere. Noi non siamo cittadini. Non esiste, infatti, cittadino quando, tedesco. Quando gli italiani mi chiedono italiano. Ma perché, cioè, quando gli stranieri mi chiedono ma come fate in Italia ad avere un primo ministro come quello che avete e come mai non ci sono sommosse popolari eccetera, io gli rispondo tranquillamente: l'Italia non è mai stata una democrazia, facciamo finta che lo sia, ma non lo è mai stata. Cioè, questa, noi non abitiamo in una democrazia, tu puoi far finta che lo sia, possiamo dirci quello che ci pare eccetera, ma siamo comunque ben lontani dall'essere in democrazia. Anna, tu volevi dire qualcosa? Mariana. No, prego. Sì, no, adelante. No, io volevo dire solo una cosa, che secondo me la cosa importante, oltre che pensare che non c'è democrazia, eccetera, bisogna ricordare quello che fanno le persone. Tutti quanti abbiamo comunque ospitato persone che nella loro vita impiega la maggior parte del tempo a creare una cosa. Allora, secondo me la cosa più importante ora, soprattutto perché abbiamo avuto degli anni nei quali ci hanno semplicemente detto che non eravamo liberi, che non potevamo fare niente, in questo momento noi dobbiamo dare peso alle cose positive, alle persone che realmente tutti i giorni lavorano con la gente, con una situazione che deve essere cambiata. L'unico modo di cambiare è realmente credere nel cambiamento, e credere nel cambiamento significa fare il cambiamento, e fare il cambiamento significa comportarsi e dire quello, cioè dire e fare. No, su quello sono d'accordissimo. Cioè, mi sento di essere. Ma quindi è inutile, diciamo, sì. Sottolineare. No, vabbè, chiaro. Che poi non... i bolognesi si lamentano sempre. Questo è. No, ma è tutta una nostra, l'Italia, cioè, è una nel nostra senso, tutta l'Italia prerogativa. Si lamenta. Però cioè, sono d'accordo, assolutamente. L'unione è la nostra. Assolutamente. Cioè, chi alla fine è. è stato scelto un pensiero, purtroppo, in un'epoca, è salita una persona o comunque delle persone che facevano parte di un determinato pensiero di anni di vita di Italia, ora stiamo cambiando e quindi ora dobbiamo, certo, assolutamente, dobbiamo sottolineare. E di buono c'è che abbiamo molti canali di comunicazione che prima non avevamo. Sì, soprattutto anche diciamo canali, come dici tu, che erano comunque, che avevano una sorta di chiusura e che ora assolutamente, invece, assolutamente. E questa è la comunicazione perfetta. Se posso dire una cosa, Giulia, mi dispiace ma devo dire quella parola. E la politica è partecipazione, quindi anche questo nostro sit-in, lo so, non è, però è così, il nostro sit-in secondo me ha un atto politico, perché noi abbiamo scelto di portare dei contenuti. E anche se non abbiamo avuto un riscontro poi così immediato, nel senso che la piazza non era piena, c'è stato un riscontro meno visibile, ma altrettanto importante, che è questo chiosco fatto di pellicola e tubi, che è ancora qui, che è rimasto aperto qualche sera perché non avevamo le fuscelle per chiuderlo, ma nessuno ce l'ha buttato giù. E quindi questo è significativo, secondo me. Vuol dire che siamo stati accettati. Noam Chomsky... costantemente riceve questa domanda, perché è importante fare delle dimostrazioni, delle manifestazioni, perché nessuno cambia, una manifestazione non fa niente, il sistema politico non va a cambiare. Noam Chomsky tutto il tempo dice sì, si cambia, ma tutto si fa per piccole... piccole parti, non può aspettare che vai a fare una piccola cosa che cambiare tutto il mondo, ma tutto fa una contribuzione, e lo abbiamo fatto nella primavera arabe, se hai visto questo, no? Abbiamo 10 minuti di trasmissione delle media, e io voleva ritornare a un altro tema, ma vorrei dire un'altra cosa di questo tema, Fedra? Io volevo rispondere alla prima domanda che hai fatto, che però cita la parola con la P, e però ho ritrovato anche abbastanza nei discorsi che sono seguiti, perciò mi faccio avanti e poi mi taccio. E, secondo me, cosa ho scoperto che sia la parola con la P e che finisce con zione? È il fatto che c'è comunque, anche se non la si vuole fare, cioè nel momento in cui c'è uno spazio condiviso c'è quella parola con la P, sia che io non ci vada in quello spazio che io invece ci vada e lo frequenti, e questo me la dice anche molto lunga, e anche seppur vagamente, rispetto a quella che è la nostra condizione sociopolitica nei confronti del primo ministro, di quella cosa lì che sta in quella stanza là. Ecco, scusatemi, adesso mi taccio. Sì. Un ultimissimo commento. Io vorrei sottolineare l'importanza dell'essere consapevoli del valore politico, sociale, chiamiamolo come vogliamo, di tutto ciò che facciamo, esattamente come in questo momento, quando usciamo fuori dalle nostre case. Quindi sì, credo che la media abbia avuto e abbia un grande valore da questo punto di vista. E questa credo sia la mia più grande soddisfazione rispetto al progetto. Responsabilità civile? Sì, proprio nel senso di responsabilità, essere in grado di rispondere di se stessi, di rispondere agli altri, di rispondere al luogo in cui si è. Okay. Mi taccio anch'io. Non abbiamo fatto il classico, per cui non capiamo. Scusate, io faccio lo scemo per riempire dei buchi. Posso? Benissimo, benissimo, benissimo. L'ultima domanda della notte. Questo progetto ha cominciato, fa l'ispirazione in un'iscrizione bolognese, molto bolognese, e vorrei leggere, per prima volta, credo, in tutta la programmazione delle media, l'iscrizione. Marianna. Marianna. Marianna. Marianna. Marianna. Marianna. Marianna. Forse Marianna vuoi leggere anche vol. Sì, Marianna, Marianna. Secondo me Daniela la deve leggere. Daniela. Perché sì, c'ha questa voce da Aelia Crespi. Vieni, vieni qua, Daniela. Agli dei mani, Elia Lelia Crispi, né uomo, né donna, né androgeno, né fanciulla, né giovane, né vecchia, né casta, né meretrice, né pudica, ma tutto ciò, uccisa, non dalla fame, né dalla spada, né dal veleno, ma da tutto ciò, non in cielo, né nelle acque, né sulle terre, ma ovunque giace. Lucio Agatone Prisco, né marito, né amante, né parente, né triste, né allegro, né piangente, questa non mole né piramide né sepolcro, ma tutto ciò sa e non sa a chi è dedicata. Questo è un sepolcro che non contiene salma, questa è una salma che non è contenuta da un sepolcro, ma la salma stessa è a sé sepolcro. Ebbene, grazie. E cosa significa questo? Tu sai la risposta? Sì, per me è il pianeta. Il pianeta? Sì, ci ho pensato, il pianeta. Il centro commerciale. The Earth. No, non il centro commerciale, io pensavo il pianeta Terra, è quello dove abitiamo. Però se per te potrebbe essere il pianeta centro commerciale? No, io sto pensando a Daniela che mi vuole strozzare. No, beh, secondo me Daniela ha la risposta a questo inghippo. Per te è Daniela? Secondo me è lei. passo il microfono a Vincenzo. Boh, è effettivamente la prima volta che la sento, una volta Marianna. No! Vincenzo, non hai letto il documento? Non hai studiato? No, non l'ho letto, onestamente non l'ho letto. Ma come non l'hai letto? No. Beh, l'abbiamo buttato in vacca e sono... No, io non mi sono fatto per niente un'idea, onestamente. No. Nessuno? Non è possibile. Marianna se l'è fatta un'idea. Non c'è una risposta, però secondo me parla della semplicità dell'essere tutto e l'essere niente alla fine. Non è forse Bologna? Sì, la città anche. Bologna. Ma in un testo che raccoglie un po' di critica alla lapide, viene riportato il fatto che ciascun commentatore che abbia tentato la risposta vedeva come risposta l'oggetto stesso della propria ricerca, quindi la tua ricerca è Bologna. Vedi, Fedra ha studiato. se invece io lo vedo come un rebus... alla Bartezzaghi, per cui all'antica massone, esatto, per cui secondo me c'è una risposta precisa, giusto che non la sappiamo perché la soluzione, cioè il numero della settimana enigmistica in cui c'era la soluzione perduto. È stato buttato nel riciclo della carta. Dici che è un messaggio mafioso? No, un pizzino. Come le arance sono mature o qualcosa del genere. No, mafioso sì, direi di no. Non lo so, forse Babe ha la risposta pronta. Non sono un massone. Quindi, vedi, mi dai ragione. Quindi non posso saperlo, forse qualche dicolante bolognese. È la piazza. Sono tutti, non è né uno né l'altro, ma tutti. Forse è vero. Qualcun altro? Qualcuno degli ascoltatori. No, Beh, siamo tutti noi. E la parola con la P. Scusa, ehi. Federica. E Claudia? Antonella? No, momento di... L'unica perplessità che ho io è la parola giace, nella lapide, nel senso che qualsiasi risposta diamo potrebbe essere poi controproducente, nel senso che ci facevano anche notare che ci sono diverse superstizioni su questa lapide, vero Giulia? Quindi dobbiamo decidere come giocare la valenza della scrittura. Potrebbe essere qualcosa di nefasto, invece qualcosa di positivo. Stiamo attenti a quello che diciamo, solo questo. Però noi abbiamo dimostrato che tutte queste superstizioni non sono vere. Forse un'altra persona vuole parlare? Maddalena, dacci la risposta, tu che ti occupi di comunicazione, la risposta l'hai, ce l'hai, sappiamo che la comunicazione è la risposta per tutto. Bene, abbiamo arrivato nell'ultimo minuto della trasmissione di Alle Media, vorrei dire quelle conclusioni. No, un minuto, salutiamo tutti e mandiamo la sigla. No. No. Io vorrei mandare un ultimissimo ringraziamento a chi ha lanciato questo progetto, perché dopo aver proposto quel gioco di evitare la parola con la P che finisce con la Ione, devo dire che che Pablo Elghiera con questo progetto secondo me ha veramente fatto una proposta che traduce questa parola nel mondo dell'arte contemporanea, sia in tutto quello che noi adesso cerchiamo di scoprire per quanto riguarda soluzioni sociali, il futuro, il popolo e così via, in un modo molto, molto, molto, molto semplice. È proprio quello di averci insegnato di ascoltare, non solo di parlare, perché noi parlavamo sempre di questo strano aspetto dell'arte contemporanea che adesso non si vede ma si sente solo, ma non è che si sente solo, non è che produciamo solo delle parole, abbiamo anche imparato non solo ad ascoltare ma anche a fare delle domande, a creare un dialogo, e credo che questo sia proprio una delle soluzioni migliori per andare avanti. Grazie Pablo. Grazie a tutti. Io volevo dire che per me Alele Crispi è forse la parola, no? La parola, perché non è uomo né donna né androgino, né fanciulla né giovane né vecchia né cassa né meretrice né pudica, ma tutto ciò, perché si può fare quello che vuoi con le parole, è uccisa non dalla fame né dalla spada né del veleno, ma tutto ciò, e non è in cielo né le acque né sulle terre, ma ovunque giace, come la radio, no? Non siamo né marito né amante né parente né triste né allegro né piangente, ma tutto ciò con le parole, e grazie a tutte per tutte le parole che hai creato per questo progetto, e aspetto che può continuare in un futuro prossimo. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Pontoni. Elia Media.